vuoto. Al tempo del buon vecchio Tullo Stiglio, sembra che Roma e Alba Longa non andassero d'accordo. E per decidere quale delle due dovesse essere rasa al suolo, si ricorse allo stratagemma degli Orazi e dei Curiazi. Finì 3-2 per gli Orazi, nel senso che dei rappresentanti di Roma ne rimase vivo uno, per poco, perché stufo dei piagnistei di una sorella innamorata cotta di un defunto Curiazio, la uccise, costringendo così il tribunale locale a condannarlo a morte. Va detto che molto probabilmente Orazi Curiazi, la loro partita all'ultimo sangue, Tullo Stillo compreso, sono tutte balle leggendarie. Ma non va sottovalutata, balle leggendarie. Ma lo dice Tito Livio. Ma figurati, non va sottovalutata comunque la brillante ingegnosità della soluzione, questo è vero. Non so se lo dica Tito Livio, ma tre convinti guerrafondai, tre assetati di sangue altrui, si trovano in qualsiasi popolazione, e se ad essi facessero ricorso i potenti per risolvere le loro beghe, verrebbero risparmiate milioni di vite umane innocenti. Per l'addestramento agli Orazi e dai Curiazi moderni vanno bene le informazioni che mio figlio mi porta da Budapest. Liberati dal comunismo, come si suol dire, i giovani ungheresi, oltre che dai McDonald, sembra che facciano la fila al Quasar. Quasar. Non si tratta degli oggetti celesti più o meno misteriosi, quasi stellar radio sources, come si traduce, Oliva? Fonti radio quasi stellari. Quasi stellari. Quasi nel senso che più o meno stellari, che sono stati scoperti queste fonti radio nel 1963 dall'astrofisico cinese-statunitense, a dire il vero, Ong Ye Chiu. Bensì si tratta di quello che eufemisticamente verrebbe definito come un locale per divertimenti. Ci entri e ti ritrovi in un oscuro sotterraneo, dal tratto inconfondibile dell'incubo metropolitano. Tra la fuga da Nuova York, Blade Runner e qualche ambientino al futuro di Terminator, no? Tanto per intenderci, indossi uno speciale giubbotto, imbracci la tua arma laser e con la tua squadra d'azione ti prepari alla miglior strategia per sterminarli tutti senza pietà. 10 contro 10. Il regolamento del gioco infatti prevede due squadre nemiche ed una loro base segreta da eliminare. Non siamo in un videogame. Qui i personaggi dell'azione sono in carne ed ossa, almeno finché restiamo in carne ed ossa noi stessi. Avvertono le istruzioni che è opportuno segnalare alla direzione se si soffre di asma, di epilessia o di claustrofobia, o se sei malato di cuore. Così almeno qualcuno ti viene a ripescare dopo un po', se non ricompari più alla superficie. Quando ti sparano e sei colpito, ti godi fino in fondo il brivido dell'avventura finita male, perché i sensori del tuo giubbotto ti fanno sentire una specie di vibrazione. Hai 3 secondi per nasconderti e in quei 3 secondi non puoi rispondere al fuoco. Poi risorgi più cattivo di prima. Ogni morto che fai punti, prontamente registrati da un computer che all'uscita, a sterminio concluso, ti dà anche il rendiconto delle tue prodezze. Per esempio, non so, hai ammazzato 11 volte il numero 2, oppure nel buio e nella trafelazione hai colpito per sbaglio qualcuno dei tuoi, 3 volte il numero 6, una volta il numero 9. Ecco perché nella realtà così vanno le cose. A Budapest fanno la fila. Sembra che occorra prenotare con almeno 2 giorni d'anticipo. Mi immagino che qui nessuno voglia essere da meno. Soldatini, cowboy ed indiani, carabine ad aria compressa. Imitazioni sempre più raffinate hanno accompagnato i giochi di innumerevoli generazioni post-industriali. Per buona pace dei genitori che abbiamo avuto e dei genitori che siamo stati, va detto che non sono mai stati giochi innocenti. La simulazione è un processo analitico che non si arrende da sé, almeno fino a quando il modello non è pari pari all'originale. Così la vita e la morte, che è sempre stato il gioco sublime dei potenti, in una forma caricaturale al limite, diciamo che sta diventando alla portata dei sudditi. Tennis, ping pong, play them video games. Speedway, Star Wars, Space Invaders, love them all the same. Make your turn, my turn, competitions get into my brain. Your score, my score, low score, high score, stop and play again. Invaders, love them all the same. Make your turn, my turn, competitions get into my brain. Your score, my score, low score, high score, stop and play again.